1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui, sono le 7:18 minuti, cari ascoltatori, siamo pronti alla lettura di giornali e oggi parleremo di scuola. Scuola, ma è il maestro Renzi si è presentato con la lavagna a spiegare la buona scuola. Ci sono i sindacati in subbuglio, ci sono gli studenti e alcuni professori in subbuglio, minacciano il blocco degli scrutini che il garante degli scioperi ha già detto essere un blocco illegale e dunque illecito. Ne discuteremo, poi ci sono questi test invalsi che sono stati boicottati da circa uno studente su 5. Insomma, la questione è molto semplice. In Italia, appena si tocca la scuola, il santuario della scuola, non si può fare nulla. Questa è la verità. Stringi. Qualunque riforma vogliate fare, è impossibile. Questo è il dato di partenza da cui prenderemo spunto per discutere dalle 8:15, questo è il mio punto di vista personale ovviamente, ma lo offro a voi. Intanto i giornali. È giovedì 14 maggio, i titoli, il Sole 24 Ore apre sull'Istat che rialza il PIL più 0,3% nel primo trimestre 2015, certo Spagna più 0,9, Francia più 0,6, dunque noi in positivo ma non come Spagna e Francia. Per il Corriere della Sera, pronto il decreto sulle pensioni, ma basta andare sul Messaggero e leggere un titolo ben diverso: pensioni, spunta l'ipotesi rinvio. Allora, che succederà? Rinvio, decreto, pagate subito, pagate a settembre. Intanto si discute, forse lunedì ci sarà la risposta. Poi la questione migranti per Repubblica, azione militare antiscafisti, l'Unione Europea trova l'accordo sulle quote di accoglienza. Per il giornale, porte aperte agli immigrati. La Stampa invece, migranti, navi contro i trafficanti. Avvenire ha un titolo un po' arzigogolato sul tema. Migranti, piano avanti. Questo è il titolo di prima pagina. Mentre il titolo di prima pagina di Libero lo vedremo tra poco, perché certamente è un qualcosa che fa un po' arrabbiare. Il Fatto Quotidiano dal secondo giorno ha tirato fuori questa vicenda, cioè di una sentenza che ha prescritto Montedison, e i giurati per la discarica di Bussi parlano a distanza di tempo a dire siamo stati vittime di pressioni. Il Fatto Quotidiano torna su questa vicenda. Bussi, due cene per un inganno, si muovono il ministro e il CSM. Ma io voglio partire ormai da quella che è diventata la vicenda degli impresentabili in lista. Sapete che è un po' anche una mezza comica, e cioè è partita una campagna dalla Stampa, soprattutto dal Fatto, a dire alcuni candidati del PD in campagna sono impresentabili. Ci sono alcuni che erano di destra e adesso sono con De Luca, ci sono altri che sono appoggiati da Avanguardia Nazionale, addirittura il cui leader è stato processato per la strage Italicus, quindi di estrema destra, ora appoggiano De Luca. Altri hanno i genitori che hanno avuto problemi con la camorra ma poi sono stati prosciolti. Insomma, la vicenda impresentabili è diventata quasi una comica, dico io, perché adesso tutti dicono, primo De Luca stesso, non votate i miei impresentabili, ma non dice chi sono, non fa i nomi. E allora De Luca oggi viene intervistato dal Corriere della Sera, da Marco De Marco, e dice: Matteo mi ha rassicurato, ora verrà corretta la legge Severino. E sì, perché c'è anche questo problema che se eletto potrebbe essere sospeso in quanto condannato in primo grado De Luca, e quindi può scattare la Severino. De Luca dice: sarebbe bello non tirare per la giacca al Presidente del Consiglio, le sue dichiarazioni sono un gesto di cortesia istituzionale, ma il problema Severino è risolvibile, si va verso la correzione di una legge insostenibile in alcuni punti. Così giura De Luca, che poi dice sugli impresentabili: io dico che alcune candidature sono del tutto inopportune perché incoerenti col rigore che ci siamo dati. Quando ho presentato il programma ho chiarito che ponevo due presupposti: impegno di lotta ai poteri criminali e rifiuto di ogni mercato politico. Ma nessuno dei candidati discussi a condanne o carichi penali. Io, più che dire di non votarli, non posso fare. E però non fa i nomi. Infatti il Corriere dice: ma perché non fa i nomi degli impresentabili? Per me in campagna i veri impresentabili sono quelli che cancellano l'assistenza ai disabili, sprecano i fondi europei o li restituiscono a Bruxelles avendo qui il 60% di giovani disoccupati. Registro su questo tema un'aggressività mediatica sconcertante. Più che invitare a non votare quei candidati, non posso fare. Ma quei candidati rimangono un mistero. Sono quelli indicati dal Fatto Quotidiano, sono quelli indicati da Saviano. Ecco, anche qui su Saviano, ieri De Luca era a Canale 5, alla telefonata con Belpietro, a dire Saviano sbaglia, dice solo sciocchezze, così dice De Luca. Su questo tema Saviano, secondo il Fatto Quotidiano, addirittura De Luca insulta Saviano. Saviano dice sciocchezze, ho la sensazione che si stia avvitando nella sua immagine, perché quando comincia a dire che Cantone è un'operazione d'immagine, che Roberti, il procuratore antimafia, non serve a niente, siamo al paradosso. Sulle liste ha detto una enorme sciocchezza, così Saviano. E vorrei chiedere con molto garbo a Saviano, dice ancora il candidato PD in campagna, di non confondere la battaglia contro la camorra con l'offesa alla dignità di altre persone che la pensano diversamente da lui. Non sono disponibile ad accettare nessuna lezione sul versante della camorra. Io qualche lezione potrei darla e non accettarla anche da Saviano. Così De Luca. E allora questi nomi ci sono, non ci sono, non ci sono. Ma guardate che non è solo una questione di campagna. Sentite cosa scrive il Secolo XIX. Succede a Imperia, dove c'è un appello shock del capogruppo del Movimento 5 Stelle al comune di Imperia, che è questo: votate nella regione il partito, il movimento, Movimento 5 Stelle, ma non date preferenze perché abbiamo dei sospetti su alcuni nostri candidati. Ma come? Votate il Movimento 5 Stelle, non i nostri candidati. L'appello shock del capogruppo comunale grillino a Imperia: ci sono troppe ombre su alcune persone che hanno un cognome, sono di Taggia e hanno un cognome, il cognome Mafodda, vicino a Cosche dell'Andrangheta. Questo dice in sostanza, racconta Alessandra Costante a pagina 18 del Secolo XIX, anche l'appello del capogruppo del Movimento 5 Stelle Imperia: votate la lista ma non votate nomi, non scrivete nomi. Siamo veramente al paradosso. Cambiamo tema. Fedez torna a far parlare di sé. Ha mandato una diffida chiedendo 200.000 euro a Libero e a Filippo Facci per un articolo. Dopo sapete tutta la vicenda, gli incidenti a Milano, Fedez che scrive qualcosa, Facci che il giorno dopo, io l'avevo letto anche in rassegna stampa, dicendo che il benaltrismo di Fedez è tale che potrei dirgli: vado lì a tirargli come se gli tirassi tre sberle, poi potrei dirgli che sono poca cosa in confronto, che ne so, alla fame del mondo. Sta di fatto che Fedez ha mandato una diffida a Libero chiedendo 200.000 euro. La libertà di espressione di Fedez è una querela per fare quattrini. Il rapper, che si chiama, scrive Filippo Facci, in realtà artista Federico Leonardo Lucia in arte Fedez, sottolineiamo Lucia, scrive Facci, perché si sta confermando un rapper per femminucce e per bambine, uno che se la tira da duro e poi corre dagli avvocati perché gli hanno fatto la bua all'onore. Il suo onore varrebbe 200.000 euro dopo una campagna mediatica denigratoria tra cui i principali protagonisti si annoverano in Filippo Facci e il quotidiano Libero. Così si legge nella diffida. In termini d'immagine, scrive Facci, è come se un pugile beccasse una castagna sul naso e rispondesse con una denuncia. Anzi, denunce, perché pare che abbia fatto la querelina anche ad altri, come a Nicola Porro di Virus, e abbia chiesto soldi di conseguenza, il tutto sermoneggiando sulla libertà di espressione. Vabbè, continua la disfida Fedez con alcuni giornalisti ed eccolo qua la richiesta danni. Oh, invece questa è una storia che a me fa ancora ridere, però non so se deve far molto ridere. Eccola qua, la prima pagina di Libero, l'ho tenuta per questo momento perché il titolo di prima pagina è: Corte dei conti alla mano, che certifica tutto in un rapporto di 160 pagine, le province costano come prima. Titolo di Libero. Guarda, ma le province quelle cancellate, toc toc, bussate alla sede di una qualsiasi provincia, toc toc, se vi risponde qualcuno vuol dire che non sono state cancellate. Siamo alla 106esima settimana decisiva. Comunque, il titolo di libro: Le province vivono e costano come prima, rapporto di 160 pagine della Corte dei Conti, malloppo cospicuo, i dati che contano, scrive il direttore di Libero nell'editoriale Maurizio Belpietro, è che le province costano come prima. Anzi, si legge sul Libero sempre e sul Messaggero a pagina 5, sempre da questo rapporto della Corte dei Conti. Sapete quali sono i dirigenti della pubblica amministrazione più pagati? Indovinate un po', i dirigenti delle province. La busta paga sfiora i 100.000 euro. I dirigenti delle province sono i più pagati. Ma sì, sentite, un po' mi viene da sorridere, un sorriso un po' amaro, però ti dicono che le province sono state cancellate. E allora sono state cancellate. Va bene, ma non è questo l'articolo che ci fa tenere le mani sul volante, perché ce n'è un altro. E questo, tazzine del caffè bollenti da appoggiare, brioche da appoggiare, che se no le schiacciate, c'è la marmellata, il miele, la crema e poi le mani sul volante da tenere. Lucio Musolino racconta sul Fatto Quotidiano come in un mese il capo mafia Francesco Giampà, boss di Lamezia Termine, da 22 anni al carcere 41 bis, ha ottenuto la pensione sociale. In un mese, signore e signori. Lucio Musolino, pagina 6 del Fatto. Se il boss di Lamezia Terme chiede la pensione sociale, la ottiene in meno di un mese. Non importa se è detenuto da 22 anni al 41 bis. L'INPS avvia subito le procedure e in 25 giorni al carcere di Opera Milano arriva il primo assegno sociale di 460 euro a favore di Francesco Giampà, per tutti il professore. E lui non è uno qualunque, scrive il Fatto, sta scontando l'ergastolo per diversi delitti, tra i quali il duplice omicidio di un sovrintendente della Polizia di Stato e della moglie, uccisi il 4 gennaio 92. Si tratta di Salvatore Aversa e la moglie Lucia Precenzano. Questo non gli ha impedito di richiedere la pensione sociale. Fatta, richiesta, esaminata, 25 giorni, consegnata, tutto a posto. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. AM7, il pallone d'oro dell'informazione. Sì, infatti si è visto CR7, che quando doveva schiantare la Juve ha fatto una partita. No, ma vabbè, complimenti alla Juve, complimenti ad Allegri. Dai, lo schema Allegri sta andando alla grandissima. Allora, il PIL torna positivo, questo è il dato, più 0,3%, poi i dati, si sa in Italia, come detto nei giorni scorsi, si litiga anche sui numeri, a me non me ne frega niente, io do il dato dall'Istat, che dobbiamo fare? Questo è il dato che viene diffuso. Certo, si può dire che in Spagna è più 0,9, in Francia è più 0,6, sono trainate dalla domanda interna, come analizza il Sole 24 Ore. In ogni caso, leggetevi Rossella Bocciarelli, il PIL torna positivo, più 0,3% nei primi tre mesi, spinta soprattutto da industria e agricoltura, la domanda interna è in ripresa. Per Squinzi, presidente di Confindustria, il dato è positivo ma non entusiasmante, appunto si è rapportato a paesi dove si fa meglio. Comunque si litiga anche su questo, no? C'è chi dice Grillo ha detto è un dato falso, ma quale ripresa? Vabbè, i litigi io li lascio ai litigiosi, che devo fare? Io leggo quelli che sono i dati e i numeri, ma tutto è politica in Italia. Ma è politica anche questo. Sentite che cosa avrebbe detto Renzi ai suoi. Basta questa immagine dei gufi. Eccolo qua. Maria Teresa Meli, a pagina 5 del Corriere della Sera. Calma e gesso, tanto nei prossimi 12 mesi l'economia crescerà e allora anche i gufi dovranno farsene una ragione. Io veramente adotto un gufo a questo punto, che sono animali straordinari. Perché non se ne può più di questa immagine dei gufi. Comunque, e questo dice Renzi ai suoi, e poi è tutto concentrato sulla questione delle pensioni. È la questione che tiene banco, la vera patata bollente da affrontare nei prossimi giorni, e qui almeno a raccontare dai giornali, si brancola un po' nel buio, nel senso che ci sono anticipazioni qua e là, ma evidentemente tutto è ancora segreto nelle stanze del Ministero dell'Economia e delle stanze di Palazzo Chigi, dove siede il governo. Perché? Guardate cosa dice il Corriere della Sera. Il Corriere della Sera anticipa in qualche modo quella che è l'intenzione del governo sul decreto pensioni. L'idea sarebbe di restituire subito 2,5 miliardi quest'anno, nel 2015, con questa linea, piena restituzione di soldi per la parte di assegno fino a 1.500 euro al mese di pensione, per poi scendere a zero una volta superata la soglia dei 2.500 euro di pensione. Quindi la bozza del decreto, anticipata da Enrico Marro e Lorenzo Salvia a pagina 3 del Corriere, è questa. Bozza quasi pronta. L'idea è di rimborsare tutto o quasi tutto per le pensioni fino a 4-5 volte il minimo di pensione. Sopra questa soglia gli arretrati si ridurrebbero molto velocemente. L'ipotesi è appunto questa: rimborsare tutto fino a 1.500 euro lordi di pensione, tre volte il minimo, per poi scendere all'80% di rimborso tra i 1.500 e 2.000 euro, al 60% del rimborso tra i 2.000 e i 2.500 euro, cioè 5 volte il minimo della pensione, per poi rapidamente azzerare per gli assegni più alti il rimborso. Chi prende assegni più alti di 2.500 euro non riavrà nulla indietro. Questo almeno dice il Corriere. E invece sul Messaggero si profila un'altra ipotesi ben più clamorosa: rinvio a settembre. Renzi tenta rinvio con rimborsi solo a settembre. Marco Conti racconta a pagina 3: rinviare per decreto i rimborsi delle mancate indicizzazioni delle pensioni dopo settembre. Matteo Renzi non si è lasciato convincere dalle argomentazioni del ministro Padoan, tantomeno dai moniti di Bruxelles, che pretende di sapere in fretta come l'Italia intende risolvere la questione. E ieri pomeriggio il Presidente del Consiglio è andato al Quirinale e ha spiegato a Mattarella che il peso finanziario della sentenza è tale da obbligare il governo a un'attenta e rigorosa valutazione complessiva dell'impatto che i rimborsi possono avere sulla finanza pubblica, una valutazione che non può che avvenire con la legge di stabilità da settembre. Quindi il Messaggero dice il contrario di quello che dice il Corriere: altro che soldi subito e non per tutti. I soldi forse da settembre. Per avvenire ancora diversa: un solo anno di rimborsi. Questa c'è anche sul Messaggero, cioè l'ipotesi è di rimborsare solo un anno del blocco dell'indicizzazione, non due. Insomma, ognuno ha la sua visione. Il Sole 24 Ore ne ha un'altra, non resta che attendere i prossimi giorni, Mentre su una cosa l'Europa pare essersi messa d'accordo, è il tema dei migranti. È stato fatto un accordo a Bruxelles, la famosa agenda voluta dal presidente della Commissione Juncker, e che riguarda la distribuzione obbligatoria dei profughi, cioè 25 stati dell'Unione Europea al momento sono fuori per questioni di trattati Regno Unito, Irlanda e Danimarca. 25 stati dovranno dividersi le persone attualmente presenti in Europa secondo una ripartizione di questo genere. L'Italia andrà all'11,84%. La Germania al 18,42%, la Francia al 14,17%, la Spagna al 9,1% e poi via via fino a Cipro, che si occuperà dello 0,39% di persone, proprio quote. Questo è il piano. In Italia si vogliono creare centri di smistamento, 7 per la precisione, 7 nuovi centri di smistamento. Questo sarebbe l'accordo. C'è da dire che l'accordo ora deve passare anche dai governi. Per esempio, guardate che cosa fanno in Ungheria, dove c'è il premier Orban, è uno di destra, molto molto duro. In Ungheria Orban ha fatto questa cosa che mi sono persa, credo la scriva Il Giornale. Praticamente Orban chiede ai suoi cittadini attraverso un referendum domande poste del tipo così: ma lo sapete che gli immigrati che vengono qui ci rubano il posto di lavoro? Ma lo sapete che gli immigrati che vengono qui impediscono la crescita economica? Cioè, con queste domande vagamente tendenziose il premier Orban pone la questione migranti all'interno della Turchia, dell'Ungheria. E che cosa succede? Guardate un'altra nazione che la prende con il tono molto secco: la Gran Bretagna, di David Cameron, appena rieletto e riconfermato. David Cameron dice: non vogliamo altri profughi. Ci opporremo ad ogni proposta della Commissione europea di introdurre quote non volontarie. Così ha parlato il ministro dell'interno inglese Theresa May. Le persone accolte nel Mediterraneo dovrebbero essere riportate in Africa. Questa l'accogliente Gran Bretagna. Cameron ha detto: finora abbiamo avuto una politica troppo buonista, siamo stati una società passivamente tollerante, andrebbero fatti centri sicuri di accoglienza in Africa e le persone dovrebbero essere rimandate lì. Tra l'altro, la Gran Bretagna, che partecipa nei soccorsi nel Mediterraneo per le persone in difficoltà, i migranti in difficoltà, ha salvato, proprio ieri ha fatto il primo intervento, ha salvato 400 migranti. La Marina Britannica li ha presi a bordo e li porterà in Italia. Questa è la politica della Gran Bretagna. La dottrina Cameron, eccolo qua anche sul Corriere: la nostra società è stata troppo tollerante, pagina 13 del Corriere della Sera. Capito, caro Mauro Meazza? Ma caro impresentabile Alessandro Milan, ma certamente ti ascoltavo con attenzione. Che dirti? Beh, intanto non so se puoi mostrare il disegno di Domenico Rosa, ecco, agli ascoltatori. Ecco, perché oggi il disegno di Domenico Rosa secondo me spiega molto bene ed è significativamente titolato La Yalta dei migranti. Spiegarlo, si vede benissimo. Infatti gli ascoltatori lo stanno vedendo chiaramente. Tra l'altro proprio lì c'è una cosa interessante, la firma di Roberto Galullo sulle intercettazioni, sui rischi, insomma, sui costi delle intercettazioni, argomento di cui si parla spesso, ma anche sui rischi delle intercettazioni disposte dalle procure, perché c'è l'eventualità che anche la stessa criminalità organizzata possa inserirsi addirittura come fornitrice del servizio di intercettazione. Ma se leggi Galullo, diciamo, tutto ti sarà più chiaro. Forse è un po' un articolo sul volante, lo lascio al tuo augusto giudizio. Invece so che già hai parlato del PIL e dei numeri tirati un po' come il chewing gum, ti voglio invitare a questo confronto. Tu devi leggere sia i dati che riportiamo a pagina 3 sia quelli di pagina 11, perché in pagina 11 spieghiamo anche questa segno meno, questo piccolo segno meno 0,1 dei prezzi, cioè sempre questo rischio deflazione. Ma se leggi i due dati insieme, forse il quadro diventa più chiaro. Questo ti invito. A proposito di numeri, fai attenzione, perché abbiamo il dato della rivalutazione del TFR del mese di aprile. Questo, naturalmente, in quali pagine abitualmente ospitiamo questo valore? Tributi, ovviamente. Ma bravissimo, dove tra l'altro potrai anche trovare delle cose molto interessanti, ad esempio che bisogna sbrigarsi se vuoi usare l'incentivo per i macchinari, cosiddetta Tremonti Quater o Guidi Padoan, insomma una norma che ha diverse denominazioni, ma la sostanza in cucina, che... mi metto. No, ma si tratta di macchinari industriali, non fare lo spiritoso, che poi c'è gente che invece che ci perde il sonno grande su queste cose qui, e c'è anche poco tempo. Delle pensioni non ti voglio dire niente, leggi Davide Colombo, sì. Arrivano, diciamo che qui sarà una cosa un po' come una vecchia canzone di Iannacci, me lo portano su a 100 lire, diceva, faceva il palo, non so, Turbo non è neanche nato probabilmente, però quello lì sembra un po' la determinazione. Ma Davide Colombo sulle pagine del Sole ti spiega tutto. E poi invece puoi usare ancora lo sconto se vuoi metterti le tende solari. Oggi c'è Casa 24, è giovedì. Nelle pagine di Casa 24 ti spieghiamo anche, tra le altre cose, come puoi utilizzare lo sconto per le tende solari. Infine, ma direi anche quasi, ma allargherei, last but not least, oggi mi sento abbastanza internazionale, non so dirlo in spagnolo, ma in tutto sommato mi avrebbe fatto piacere. Attendiamo il giudizio di Berlino, sai che ci sarà un giudice a Berlino, no? Diceva. Ci sarà un giudice a Berlino, quindi ci sarà. E se c'è un giudice, ci sarà un giudizio, vedremo quale sarà questo giudizio. Infine, però, previsto che parliamo di giudici, ti voglio dire: la Cassazione ci ha precisato che quando si fissa l'assegno figli in caso di separazione, bisogna guardare anche i redditi della nuova convivente o del nuovo convivente. Sì. È importante, vai a leggerlo. Certo. Indovina in che pagine? Norme e tributi. Ma certamente. E allora, traffico! Alessandro Milan, il Max Allegri dell'informazione. Dai! Allora, la scuola, ne parleremo alle 8.15. Intanto il video show di Renzi, come racconta Repubblica, come racconta tutti i giornali, parlerò 5 minuti, ha esordito così, è durato invece 17 minuti, effettivamente non credo che nessuno sia riuscito a vederlo tutto, cioè è un po' come quelle lezioni di latino, insomma, che diventano un pochino noiose alla fine. Comunque ha scritto anche una lettera ai 600.000 professori in Italia, CISL e UIL, c'è da dire, frenano un po' sulla protesta del sciopero degli scrutini, vediamo se è un'estrema razza, anche se si scrive sul Sole 24 Ore che il garante degli scioperi dice che il blocco degli scrutini è illegittimo come tipo di protesta. Renzi insomma invita no ai boicottaggi e no a ostracismi sulla scuola, per questo anche sulla questione dei test invalsi che sono stati boicottati circa da un quarto degli studenti, che sono quei test che servono per valutare il grado di apprendimento degli studenti. Ma fanno davvero così schifo? Come ho detto ieri, ma davvero in America, dove fanno le crocette, vivono di crocette nei test anche nell'università, che sono tutti degli emeriti imbecilli? Non mi pare. Però il mio punto di vista è sempre che qualsiasi cosa vuoi fare per innovare la scuola è impossibile. Comunque ne parleremo dalle 8.15, qualche notizia di cronaca mi ha molto colpito. Una pagina di Repubblica che vi invito a leggere è questa, pagina 22. Il piccolo di 9 anni che vive con la scorta per le minacce ricevute dal padre magistrato. Gli uccido il figlio maschio, questo in un'intercettazione a un boss mafioso, ed ecco allora il bambino di 9 anni che vive sotto scorta. Alessandra Ziniti racconta questa storia, pagina 22, a scuola con la scorta, al parco, in palestra, a casa degli amichetti, non con la blindata del papà, ma con la macchina che il comitato ordine e sicurezza ha assegnato proprio a lui. Un bambino di 9 anni che un boss di una cosca tra le più sanguinarie della Sicilia vorrebbe far saltare in aria insieme al padre. In questa intercettazione dice il boss: si deve fare, chiunque c'è con lui, e se c'è il figlio maschio meglio, neanche il seme deve rimanere. E così, dopo questa inaudita ferocia proclamata dal boss, ecco che il comitato per la sicurezza del Ministero dell'Interno assegna la scorta per rischio altissimo a un bambino di 9 anni, che non viene citato ovviamente per sicurezza con nome, viene definito solo con un nome di fantasia, Lucio, e che vive blindato. Su Repubblica, una storia incredibile. Mentre questa storia sul Fatto Quotidiano, anche questa dell'incredibile. Palazzo di Giustizia, lo spione, la cronista. Gianni Barbacetto racconta, pagina 3, di una vicenda che riguarda una giornalista del Corriere della Sera, Elisabetta Andreis, che sta facendo delle indagini sulle aste giudiziarie. A un certo punto riceve una telefonata di minaccia. Lei, signor Andreis, dove si trova in questo momento? È qui in tribunale? Non si preoccupi, anche noi potremmo farle delle domande. E lei con la sua famiglia dove si trova? E al lavoro dove va? E poi questa persona mette giù. Solo che fanno l'indagine e incredibilmente si scopre che la telefonata proveniva dall'interno dello stesso tribunale, dalla segreteria, o meglio dall'anticamera del presidente della Corte d'Appello di Milano, Giovanni Canzio. Questo almeno racconta il Fatto Quotidiano con Gianni Barbacetto. E la sorpresa è questo: il PM scopre che la chiamata parte da un telefono fisso dell'anticamera di Canzio, quello a disposizione del capo scorta del presidente della Corte d'Appello, il brigadiere dei Carabinieri Roberto Scapoli. Da qui insomma l'inchiesta, che ovviamente punta anche a scoperchiare che cosa di strano ci possa essere in questa vicenda. Va bene, sono arrivato alla fine, al momento della carta costa. C'erano tanti articoli da leggere, ma Che faccio, canto? Ragazzi, Libero ha iniziato questa campagna di mettere delle parole diverse su testi di canzoni celebri. E allora, anche oggi la carta costa va a Carlo Cambi su Libero nell'interpretazione di Civati! Civati, per favore vai via, tu con la Madia non ti metterai mai. C'è tanta gente che ha bisogno di un partito e qualche volta protesta un po'. Invece Renzi vuol solo comandare e deve dirti di no. Mi prego. Ma chi se ne frega?